Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Tra i molteplici riconoscimenti che sono stati tributati alla figura di Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica scomparso lo scorso 15 settembre, va senza dubbio segnalato il merito di aver impresso una svolta alla politica dei redditi e al risanamento dei conti pubblici con la firma del protocollo sulle nuove relazioni industriali e sul costo del lavoro. Era il 23 luglio del 1993. A presiedere il governo era Ciampi, affiancato in quella difficile trattativa dal ministro del lavoro Gino Giugni. L'intesa venne raggiunta dopo una lunga maratona negoziale con Confindustria, CGIL, CISL e UIL. L'accordo del luglio 93 fissa le regole della contrattazione definendo un modello contrattuale articolato su due livelli: il contratto nazionale e quello integrativo aziendale o territoriale. La durata del contratto, per la parte economica, venne fissata in 2 anni. I rinnovi contrattuali dovevano tener conto dell'inflazione programmata fissata dal governo nel documento di programmazione economico-finanziaria. La dinamica degli effetti economici del contratto, si leggeva nell'accordo, sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nella sessione di politica dei redditi e dell'occupazione, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. Decisiva per la positiva conclusione della trattativa fu la ferma determinazione di Ciampi a porre comunque un punto fermo a un confronto che era partito in realtà 1 anno e mezzo prima. Ecco come lo stesso Ciampi rievocò per il Sole 24 ore quelle giornate. Il governo si era insediato il 29 aprile 1993. Il 29 giugno andai al 12° congresso della CISL, con la quasi assoluta certezza che i sindacati e la Confindustria non erano disponibili a firmare l'accordo sul costo del lavoro. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, per me drammatico, l'accordo sembrò quasi sfumare. Sindacati e Confindustria erano sulla stessa linea. Meglio rinviare tutto a settembre. 3 mesi, un'eternità, perché i mercati finanziari avevano riposto fiducia in quella trattativa, ne avevano percepito l'importanza storica, che era quella di sradicare dai meccanismi di formazione dei prezzi quella che era stata negli ultimi 20 anni la causa maggiore dell'elevata inflazione. Un mancato accordo, ne ero pienamente consapevole, avrebbe provocato l'arresto e l'inversione della tendenza alla riduzione dei tassi di interesse, condizione essenziale per cominciare a rendere meno pesante l'onere del debito pubblico. Volli quell'accordo con tutte le mie energie. La mattina del 2 luglio presentai alle parti sociali una nuova bozza del testo. Non era più suscettibile di modifiche, prendere o lasciare. La risposta era attesa in 24 ore. Il 3 luglio eravamo di nuovo tutti lì, a Palazzo Chigi. I protagonisti della faticosa trattativa erano pronti a siglare l'intesa. Firma che poi venne ufficialmente apposta il 23 luglio. Avemmo tutti ragione. Quel protocollo ebbe effetti positivi non solo sull'inflazione e sui tassi di interesse, ma su tutte le variabili dell'economia. La fiducia che quell'accordo generò in Italia e all'estero fu il segnale concreto della comune volontà delle forze della produzione e del governo di attuare il risanamento dell'economia pubblica e privata e di realizzare le condizioni per la partecipazione del nostro paese all'Unione Europea. Abbiamo in linea il presidente Luigi Abete, presidente di BNL della Federazione Banche Assicurazioni Finanza, che quando venne firmato l'accordo sulla politica dei redditi era presidente di Confindustria. Buonasera presidente. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, ci aiuti un po' a ricostruire quelle giornate così, così frenetiche, però insomma poi si chiusero con un accordo effettivamente rilevante. Certamente la trattativa fu complessa, anche se partivamo da un accordo precedente, quello del 92. Il governo Amato, certo. Il fatto governo Amato, che comunque aveva dato, come dire, una rottura rispetto a delle consuetudini, a delle situazioni che non erano più. Però mentre la parte, come dire, di blocco era stata realizzata con l'accordo del 92, la parte costruenza doveva essere realizzata con quello del 93. L'obiettivo era quello di tenere insieme un'inflazione bassa, un mantenimento auspicato della salvaguardia del potere d'acquisto e la competitività dell'economia e delle imprese, che ovviamente si poteva realizzare solo se i tassi di inflazione rimanevano quelli previsti secondo, diciamo, l'applicazione della, diciamo, della teoria che poi è nata con il povero e compianto professor Tarantelli e che poi ha trovato in questo documento la sua valorizzazione. Devo dire che c'era buona volontà da parte di tutti, ma c'erano evidentemente difficoltà. Ad esempio, da parte nostra c'era la necessità di evitare che accanto al salario aziendale, alla contrattazione aziendale, si aprisse un livello di contrattazione territoriale. Noi siamo sempre stati contrarissimi all'epoca e ancora oggi a introdurre un elemento di contrattazione territoriale, perché di fatto questo sarebbe diventato un terzo livello di contrattazione, certo, accanto a quello nazionale e quello salariale. La soluzione che fu trovata poi fu che quella livello territoriale rimaneva per chi l'aveva, e che in realtà erano gli artigiani e il settore edile, ma non era ammesso per gli altri settori, quindi un blocco all'ampliamento di quel livello. Il secondo tema che si poneva era il tema della esigibilità del secondo livello per le piccole imprese. Sì. Il sindacato sosteneva la tesi che per delle piccole imprese non c'era un'adeguata rappresentanza sindacale, come dire, demandare il salario di produttività a livello aziendale significava escludere quella tipologia di imprese. Lì diciamo, ci fu un grande lavoro anche da parte del ministro Giugni per far comprendere al sindacato che l'operazione andava letta esattamente al contrario. Se nelle imprese si fosse potuto premiare la produttività, sarebbe stato più probabile che gli imprenditori, i lavoratori, anche con rappresentanze sindacali ex novo costituite, utilizzassero quello strumento anziché rimanere emarginate rispetto al problema. Un terzo elemento, sì, era molto rilevante e oggi molto d'attualità. Noi insistevamo, io in modo particolare insistevo, sul ampliamento del principio della decontribuzione al salario aziendale. Sì. Cioè, io sono sempre stato convinto, fin dagli anni del 92-93, che il vero modo per modernizzare la contrattazione tra il livello nazionale e il livello aziendale fosse quello di trattare diversamente il livello aziendale sia sul piano contributivo sia sul piano fiscale. Tema attualissimo, Presidente. È attualissimo, ma sa, 20 anni dopo si realizza quell'obiettivo. Io ho ricordato in un mio intervento per Il Sole, a memoria del compianto Presidente Ciampi, che il giorno in cui abbiamo firmato, cioè non il giorno della firma formale, ma il giorno dell'accordo sostanziale, il 3 luglio, sì, io ritornai in Presidenza del Consiglio senza aver ancora deciso se firmare o meno, perché insistevo per ottenere una formalizzazione di questo principio della decontribuzione al salario aziendale, che il ragioniere generale dello Stato non volle accettare perché riteneva che questo creasse un potenziale ulteriore costo alla finanza pubblica. Teoria del tutto, come dire, astratta, perché sì, se è vero che nell'azienda si migliora la produttività, è evidente che un eventuale minor trattamento previdenziale o fiscale sul salario aziendale è ampiamente coperto dalla maggiore produttività, perché altrimenti, certo, certo, non avrebbe senso. Però questo si capisce con la logica, ma non si poteva trasferire i numeri. Infatti. E quindi accettammo poi di fatto una decontribuzione simbolica, all'epoca fu messo 2,5 punti, voglio dire, di decontribuzione, ma in cambio ottenemmo dal Presidente Ciampi e dai 3 sindacati sindacalisti in una riunione riservata che per il periodo del primo biennio non si impegnassero a non fare contrattazione aziendale aggiuntiva, perché l'accordo del 93 non prevede rispetto a quelli precedenti un blocco della contrattazione aziendale, che invece nei fatti si realizzò, perché il sindacato accettò l'invito di Ciampi di, come dire, sterilizzare questo periodo. Quindi c'erano molti temi aperti. C'era poi il tema, che questo è attuale, della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, cioè di un sindacato che in fabbrica venisse eletto direttamente dai lavoratori e non venisse designato dagli uffici dei singoli sindacati confederali, con persone che al limite non avevano una capacità di rappresentanza e un feeling con i lavoratori interni all'impresa. Quindi i temi erano totali, e poi alla fine si riuscì a trovare questo punto di equilibrio, lavoro lungo ma fatto con persone di primo livello, di primissimo livello. Il presidente Ciampi volle mettere la sua personalità sul fatto di chiudere, come lui stesso ha detto, l'accordo in tempi molto brevi, ma non possiamo dimenticare per esempio anche il contributo di un sindacalista tra virgolette difficile come Trentin, che firmò l'accordo e poi dopo aver firmato l'accordo si dimise perché aveva al suo interno una serie di componenti che non lo condividevano, ma lui, convinto che l'accordo fosse nell'interesse dei lavoratori, si prese la responsabilità di firmarlo e solo dopo averlo firmato decise di abbandonare il ruolo attivo di sindacalista a livello confederale. Quindi un accordo molto importante, una bellissima esperienza anche umana, se possiamo usare questo termine, perché io poi con Ciampi ho mantenuto una consuetudine di relazione, di amicizia che si è sviluppata negli anni. Lui ha avuto l'amabilità di propormi come presidente di Banca Nazionale del Lavoro nel 98, quando io non pensavo assolutamente di mettermi a fare questo mestiere, io normalmente parlavo molto male delle banche, sì, lo ricordiamo, presidente. Va bene, allora la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi e aver rievocato per i nostri ascoltatori quel importantissimo accordo del 23 luglio del 93 sulla politica dei redditi. Buonasera, presidente, grazie. Prego, prego.